Incontri di Gianfranco Fabi. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Sembrava la fine del mondo e sono ancora qua. Vasco Rossi, già, questa canzone ci introduce il dialogo di questa sera. Buonasera a quanti si ascoltano e buonasera a Carlo Bassi. Buonasera a tutti voi, grazie. Carlo Bassi è amministratore delegato di Back to Work, un'azienda, una società, un gruppo, una divisione, come la dobbiamo chiamare? Una parte del Sole 24 Ore che si occupa di lavoro, di dirigenti e, come dice appunto il suo nome, Back to Work, tornare al lavoro. Sembrava la fine del mondo, dice Vasco Rossi, quando uno perde il lavoro sembra la fine del mondo e sono ancora qua, quindi c'è una speranza. Beh, indubbiamente. Noi abbiamo pensato che con la nostra iniziativa si proponesse in maniera nuova, perché oggi il mondo richiede che si pensi in maniera nuova, anche quello che ognuno ha fatto in passato nel solito modo. C'è una speranza, c'è sempre una speranza. Quindi Back to Work, tornare al lavoro, che non è solo però un cercare un nuovo lavoro. No, difatti Back to Work è tornare al lavoro, ma anche ritornare a pensare che è centrare il lavoro. Noi usciamo da una storia recente in cui la società è stata travolta da un'economia che pensava che il lavoro fosse secondario alla finanza, tanto per dirla. E invece l'idea è che non solo tornare al lavoro, ma diventare anche imprenditori nel tornare al lavoro, quindi metterci del proprio. E quindi anche prendere il proprio risparmio privato e pensare con questo di ricostruirsi il proprio lavoro, la propria carriera. Si pensi a un uomo che a 50 anni viene espulso dal mercato del lavoro, possibilità reali di trovare un impiego, se poi addirittura sei in un ruolo dirigenziale, sono limitati a zero. Perché non costruirtelo tu o trovare dei partner, come diciamo noi, in piccoli imprenditori a cui vai a dare certo anche finanza, ma soprattutto le tue competenze. Ecco, Carlo Bassi, com'è arrivato a pensare a questa società e a dirigere questa società adesso? Da esperienze personali che non mi vedevano travolto dalla crisi, perché sono iniziate riflessioni prima. Ero convinto già prima della crisi che io, che facevo il manager, faccio tuttora il manager, non mi sarebbe stato consentito di arrivare alla pensione facendo il manager probabilmente, cioè qualcuno mi avrebbe pensato di potermi espellere dal lavoro in qualsiasi altro momento, al di là della crisi, perché ormai il sistema è così. E allora mi sono detto, ma perché le tue capacità, la tua spirito di iniziativa, quello che hai imparato in 30 anni di lavoro, non lo metti per costruire qualcosa che poi diventa tuo inevitabilmente, anche rischiando? E i miei pochi risparmi accumulati, invece di fare come avrebbero fatto tutti, la casa al mare, la seconda casa, la casa per i figli, ho pensato che un modo alternativo di investirli potesse essere quello di investirli in piccole aziende. Costruisco motociclette, anche cose divertenti, più divertenti che fare il manager di una multinazionale, barche, abiti sartoriali, ovviamente ognuno poi ha le proprie attitudini, certo. È così. Quindi poi è nata questa esperienza appunto di Back to Work, poi da quanto tempo? Poi è un paio d'anni, arriva la crisi, vedevo attorno a me questo sistema che vedeva le piccole imprese soffrire, non solo di mancanza di accesso al credito, perché le banche alle piccole imprese non danno nulla, ma soprattutto di una mancanza di managerialità per poter sfidare il mondo nuovo, i mercati internazionali, tutte quelle cose che sono diventate obbligatorie anche per una microimpresa italiana. E vedevo dall'altra parte che uscivano sul mercato del lavoro curriculum straordinari, manager, professionisti, impiegati che avevano fatto 20 anni di lavoro e che con questa managerialità, se non avessero trovato un luogo dove metterla a disposizione, sarebbero finiti per fare, e non è una battuta ed è rispettosissimo fare, anche il tassista, cioè, quindi cambiando e buttando a mare la propria competenza. E allora abbiamo pensato, perché non creare, e qui aiuta la nuova tecnologia, con un sito puoi creare un meccanismo in cui la gente si incontra. Ci hanno definito l'agenzia matrimoniale dei manager con le imprese, siamo nati così. Oggi siamo una struttura che conta 50 partner sul territorio, oltre 2000 manager che si sono affidati a noi, oltre 1800 imprese che si sono affidate a noi. Ma la cosa curiosa è che sono arrivati anche gli investitori, che prima ignoravano la piccola impresa. 350 investitori privati, la borsa italiana che ha preso Back to Work come un interlocutore per pensare che anche le piccole imprese con buoni progetti di crescita si possono portare in borsa, all'AIM ovviamente, alla piccola borsa. siamo diventati un fenomeno che sta cambiando un po' il sistema. Ecco, quindi, perché c'è un paradosso italiano, quello che ci sono molti capitali, molte risorse, molto risparmio, gli stessi manager hanno delle liquidazioni magari non milionarie, però sicuramente significative, però questo risparmio non si mobilita, non riesce a mobilitarsi in operazioni appunto direttamente inerenti alla produzione, di imprese, al lavoro, certo. Ecco, con imprese che invece hanno bisogno di questi capitali. Io parlavo quando presento Back to Work di alcuni fenomeni, il primo dei quali è quello che l'Italia è cresciuta creando un enorme risparmio privato che io però ho sempre definito improduttivo, erano titoli di Stato, certo, o immobiliare, nulla che andasse al lavoro, mai, e intanto avevamo i figli che non lavorano perché non trovano il posto di lavoro. Poi abbiamo le piccole imprese che, per storia tipica di questo paese, sono rimaste nane, ma nane nel senso piccole, non si sono sviluppate perché tutte incastonate attorno all'idea geniale dell'imprenditore, ma mai attrezzate con managerialità per poter fare sviluppo. E poi, fenomeno invece dovuto tutto alla crisi, patrimonio umano, capitale umano straordinario. Io dico sempre come battuta: se questo capitale che noi abbiamo oggi a disposizione nell'ordine di decine di migliaia di professionisti fosse messo a disposizione di un paese del terzo mondo, questo crescerebbe rapidamente in un terzo degli anni che ci vuole a crescere normalmente. Mettiamoli insieme, facciamo questo impasto, certo, che crea sviluppo. Facciamo conoscere in fondo, sì, queste due realtà, facciamo informazione, che poi è un po' la missione originaria del Sole 24 Ore, e quindi anche una realtà come questa si inserisce molto bene in una realtà, in una filosofia proprio del gruppo del Sole 24 Ore, che è quella di mettere insieme, far conoscere, di fare informazioni, di connettere in fondo la società mettendo e valorizzando le posizioni positive che possono esserci. Ma difatti, devo dire, adesso sembra facile dirlo essendo lavorando al Sole 24 Ore, facendo il manager, abbiamo per il una convergenza di interessi. Però è straordinario che un gruppo che apparentemente poteva sembrare lontano, anche se ricordiamoci, poi il gruppo è anche quello che ha creato una delle migliori scuole di formazione per manager, quindi così via. Però che un gruppo che apparentemente faceva altro ha messo insieme una realtà che serve, aiuta proprio il sistema, le piccole imprese e i manager, lavorando proprio sul concetto del comunicare, farli entrare in comunicazione tra di loro, che poi è l'expertise maggiore che abbiamo. Ecco, anche con metodi, come dire, non convenzionali, cercando anche delle formule nuove. Mi pare che avete in programma per l'autunno un'iniziativa particolarmente nuova. Sì, sì, siccome ci siamo accorti che attorno a noi oramai abbiamo pensato e creato un mercato che prima non esisteva, cioè quello delle piccole imprese che incontrano il capitale. Immaginate voi se prima della crisi si poteva andare da un fondo di investimento o da una banca a dire: faccio investimenti in equity in una piccolissima impresa. Oggi è possibile, abbiamo creato una fiera. Ecco, qui la fermo. Abbiamo creato un po' di curiosità in quanti ci ascoltano, una fiera che si svolgerà in autunno, ma ci fermiamo un attimo. Mi dicono che sono pronte le notizie sul traffico. Perfetto. E nella seconda parte dell'incontro con Carlo Bassi faremo luce anche su queste iniziative. Grazie. Incontri. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va, al diavolo non si vende, si regala. Con l'anima che si pente, metà e metà. Con l'ego sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole. Io sono ancora qua. E anche noi siamo ancora qua con Carlo Bassi, amministratore delegato di Back to Work, una società del Sole 24 Ore che si occupa del lavoro dei dirigenti delle piccole imprese, di come connettere questo lavoro con le piccole imprese. E già di Vasco Rossi ha introdotto la prima e la seconda parte di questo nostro colloquio. Abbiamo concluso la prima parte parlando di una nuova iniziativa di Back to Work, di una fiera che si svolgerà in autunno. Una fiera, allora Carlo Bassi, specifichiamo di cosa si tratta. Il 18-19 novembre presso la sede qui del Sole 24 Ore in Viale Monterosa, noi organizzeremo una fiera matching, sono questa formula innovativa per cui noi facciamo incontrare fisicamente alle piccole imprese italiane, alle start-up dei tanti giovani che creano imprese nuove, tutto il mondo del capitale, inteso i fondi di investimento, le banche, gli investitori privati, i business angels e più ne mette, i nostri manager investitori, in un incontro fisico che in due giorni permette di fare quello che noi normalmente durante l'anno facciamo e faremo, però un'occasione anche proprio di dibattiti, convegni sul tema come investire una piccola impresa, quanto conviene investire una piccola impresa, le modalità di sviluppo della piccola impresa, tutto questo per mettere al centro poi una cosa che sembrerebbe ovvio dirlo, parliamo delle piccole imprese e non parliamo di una cosa straordinaria, il nostro paese ha il 95% di imprese che sono piccole, certo. Il 5% sono le medie e le grandi, allora dovremmo parlare di questo con l'assoluta normalità. È la prima volta che lo facciamo, ovviamente lo facciamo utilizzando la piena titolarità del Sole 24 Ore in questo senso, lo facciamo in partnership con tutto il gruppo che fa formazione e quindi si occupa di lavoro, di professionalità, di formazione dei manager, per fare un grande evento che fa entrare in contatto per la prima volta in assoluto, in modo sistemico, la piccola impresa, l'artigiano, la microimpresa con il capitale e il risparmio. Ripetiamo le date? 18-19 novembre qui a Milano. 18-19 novembre, del Sole 24 Ore, allora diventa, diciamo, visibile anche questo incontro, sì, tra la domanda e l'offerta, tra chi offre lavoro, chi offre capitali, chi cerca lavoro, e quindi in questa situazione con la speranza appunto di essere ancora qua, come dice Vasco Rossi, di essere ancora partecipi di questa realtà. Ecco, quali sono i segnali che arrivano in questa fase adesso ormai ad estate inoltrata? Come possiamo guardare all'autunno anche complessivamente un po' per l'economia italiana? Qualcosa si muove? La sensazione in primis che qualcosa si muove, nel senso che la gente inevitabilmente adesso ha assorbito il fatto, ha elaborato il lutto della crisi, nel senso che la crisi è un fatto che c'è, non se ne può fare meno, si può prendere con chi si vuole, ma di fatto, e quindi c'è, noi lo verifichiamo incontrando i piccoli imprenditori a decine ogni giorno su tutto il territorio, i manager, una volontà di trovare la soluzione, anche senza più chiederla normalmente alle istituzioni, a chi doveva farlo e non l'ha fatto, cioè si è mai superato la fase di dire, di lamentarsi, e quindi c'è questa grande reazione che onestamente, anche in tempi non sospetti, io dicevo forse dovremmo sentirci un po' come nel dopoguerra, cioè la reazione del dopoguerra, dobbiamo ricostruire, e questa sensazione che qualcuno, cioè che molti abbiano incominciato a pensarla così, c'è effettivamente. C'è un'idea anche della parte della vostra società di andare un po' a cercare risorse anche all'estero, sono molti giovani che vanno all'estero, fanno grandi esperienze ma non riescono a tornare in Italia perché in Italia le opportunità sono poche. Sì, allora noi abbiamo anche intenzione di interessare l'estero cioè di trovare all'estero chi si interessi delle nostre imprese. Ma aggiungo una cosa per i giovani, lancio un messaggio un po' filino provocatorio. A me piacerebbe che i giovani non pensassero solo che all'ennesima buona idea si faccia l'ennesima azienda, ma che la loro buona idea, magari con anche un po' di risorse finanziarie, potrebbe diventare motivo di sviluppo di una piccola impresa già esistente, che è un modo diverso di pensare la startup, perché tutto diventa moda in Italia, allora si parla solo di startup, poi si va a vedere la moria dopo un anno o due, il 99% muore, rimangono pochi e con fatica. L'ipotesi di prendere una buona idea, un po' di risorse e entrare in una piccola impresa ti permette di fare apprendistato e di mettere in un incubatore reale la tua piccola impresa per vederla crescere. Questo è un altro progetto che Back to Work sta proponendo. Quindi piccole imprese che sono già strutturate, sì, che hanno già una dimensione capace appunto di stare sul mercato, che hanno difficoltà perché manca forse loro una spinta innovativa. Innovativa, giusto. E potrebbero trovarla dai giovani dando in concambio. Portami una buona idea, la tua energia, io ti do un posto, uno spazio, un luogo e un ambiente per lavorare. Quindi mobilitando appunto anche risorse che attualmente sono indirizzate ad altri luoghi. Assolutamente. Cioè, in questo senso che garanzie può avere una persona che investe in un'impresa? Ovviamente il rischio è molto forte. Beh, però vogliamo anche questo sfatare una cosa, che uno non deve pensare subito alle garanzie. Prima pensi agli obiettivi e ai traguardi che si pone. Le garanzie sono quelle di chi vuol fare l'imprenditore. D'altra parte, se un ragazzo decide di fare una startup, ha già deciso, o forse obbligato, a mettersi a rischio. Io parlo sempre raramente delle garanzie, al di là di quelle doverose, giuridiche, certo, legali e cose, ma noi dobbiamo avere una maggior propensione al rischio, all'intraprendere. Chi intraprende rischia, è inutile che ci facciamo delle illusioni, se no van bene i BOT, i CCT o gli immobili, però... Ecco, ma i settori di cui si parla sono solamente quelli innovativi, internet, le nuove comunicazioni, no, social network, oppure questa Italia che viene spesso accusata di aver puntato sempre sui settori tradizionali, ancora in questi settori delle risorse mobilitari? Allora, io vi faccio una domanda che vuole volutamente essere provocatoria, ma c'è innovazione solo a fare l'ennesima app digitale o c'è l'innovazione a inventarsi una nuova vernice particolare che riduce gli attriti? Sto parlando di una cosa e che sta vendendo ai team di Formula 1. uno. In Italia c'è questo e noi dobbiamo sfruttare principalmente questo, non rinunciando anche, però che non tutto diventi moda. Normalmente l'innovazione è chissà perché sempre aggiunta al termine digitale, ma certo. Perché innovazione solo chi costruisce appunto per l'iPad e chi sa fare i mobili diversamente con un'applicazione che li rende più facili da costruire non è innovativo? Allora, cioè quindi si può fare in modo nuovo delle cose vecchie? Assolutamente, si devono, in un paese che è prettamente manufatturiero e artigiano, portare innovazione vuol dire tra l'altro utilizzare il genio tipico, la capacità, e renderla innovativa anche nel modo di portarla sui mercati. È inutile che noi pensiamo che ancora vengano da noi a trovare il pezzo d'artigianato, noi dobbiamo portarlo e farlo diventare industriale. Questa è la grande innovazione. Anche perché molti dicono che nei geni italiani, quello di sull'esperienza, costruire l'intuizione e la creatività, avere una possibilità creativa è forse qualcosa in più, che poi se uniamo anche alla capacità di fare le cose non solo bene ma anche belle abbiamo fatto bingo in un certo senso. In questo senso devo dire che la vetrina che ci permette di Back to Work è straordinaria, perché io sto conoscendo le cose meravigliose che questo paese sconfinato per la prateria che è la piccola impresa in tutte le province, gli spazi così, è straordinaria, è notevolissima. Ma in quali settori ha avuto maggiori soddisfazioni in questi primi anni appunto di esperienza? C'è qualche, anche magari senza citare il nome, però qualche impresa che l'ha sorpresa come elemento positivo, in cui dice ma questa potrebbe essere così così, e poi dopo invece... Ma nei giorni scorsi mi sono meravigliato che nelle piccole imprese ci sono anche delle chicche di straordinaria eccellenza tecnologica. Un'impresa che ha chiuso un accordo di investimento con un manager che si occupava di biologia molecolare, un'impresa piccolissima, e uno pensa che queste cose siano solo nelle grandi industrie o nelle cose. Oppure un'altra impresa con cui stiamo facendo la trattativa che fa armi sportive e che sta invadendo mercati storici, tradizionali e al di fuori. Sono tutte piccole imprese che sono tra un piede tra l'artigianato e l'impresa, che hanno cose, competenze tecniche uniche al mondo, non in Europa, in Italia, uniche al mondo, e che rappresentano un potenziale di crescita straordinario. Ecco, abbiamo parlato appunto della possibilità di trovare nuove possibilità di sviluppo professionale associando questo sviluppo professionale a un finanziamento, a un'operazione finanziaria. Sì. A che livelli si parla? Proprio per essere concreti, sì. per entrare appunto operativamente in piccole imprese, in aziende... Noi partiamo da tagli minimi tra i 70 e i 100.000 euro, e poi i limiti a crescere possono essere infiniti e illimitati. Normalmente il taglio medio dell'operazione che abbiamo chiuso è tra i 150 e i 250 mila euro. Perché aggiungo, cosa a cui tengo? In realtà quello che state investendo in parte minima, ma anche l'imprenditore lo percepisce così, è l'aspetto finanziario. Poi voi potete valorizzare anche in quote di partecipazione il vostro contributo professionale. Ecco, quindi è un'offerta, una possibilità aperta ad ampio raggio, ad ampio spettro. Assolutamente. Non troviamo solo mega top manager con belle liquidazioni, troviamo persone normali che dopo 20 anni o 25 anni di lavoro la liquidazione è di 150.000 euro. La domanda che faccio sempre: ma se non la investi in qualcosa per il tuo lavoro, quanto ti può durare la liquidazione, certo, che hai in mano? 2 anni? Ecco, in questa prospettiva appunto si dice che 3/4 dei manager che prendono lavoro dopo i 50 anni non riescono ad essere ricollocati. Assolutamente. Quindi ce ne sono molti purtroppo. Tantissimo. Nella realtà italiana. Tra l'altro se ne parla relativamente poco, si fanno grandi numeri perché i giovani, 3 milioni di giovani, 2 milioni di giovani, parliamo di qualche centinaia di migliaia di persone, ma attenzione, vuol dire persone che sono a capo di un nucleo familiare, che lo guidano, cioè che lo mantengono, che sostengono la possibilità dei figli che hanno di andare all'università. Quando viene meno il lavoro per uno di questi, con tutto rispetto, certo, per un giovane che non lavora, l'impatto che si ha è molto più pesante che un lavoro, che la mancanza di lavoro di un giovane, che poi può anche decidere di andare all'estero. Un manager con 2 figli grandi, una moglie, una casa con il mutuo e quant'altro, difficilmente può decidere di andare in Cina a lavorare, deve lavorare qua. Ecco, la realtà italiana è messa spesso sotto accusa per la complessità burocratica, amministrativa, fiscale. Anche in questa prospettiva qualche problema c'è però. Sì, c'è, con però un aspetto di vantaggio. che è una trattativa tra privati, voglio dire, e quindi lo Stato, sì, giuri, gli aspetti legali, il notaio, le cose, però francamente sono non, aspetti, il no, non sono gli aspetti principali. Non è il problema principale, il problema principale forse è proprio la volontà di fare un salto di qualità, di passare dal lavoro dipendente a un lavoro in cui si chiede una compartecipazione imprenditoriale, ecco. Esattamente. E l'altro problema è quello di capire che da quel momento non si viaggia più da soli, si è almeno in due, l'imprenditore con un nuovo socio e il manager con un imprenditore che è tuo socio, e quindi deve cambiare la logica, non stai più pensando alla tua carriera, stai pensando alla crescita di un'azienda. Ecco, in questa prospettiva il mercato è ampio e ha grandi possibilità da entrambe le parti. Vastissimo. C'è una grande offerta, ma c'è anche una grande domanda da parte delle imprese. Ah, straordinario. Una grande apertura, si dice molto spesso che le aziende familiari sono un po' chiuse in se stesse, tendono a difendere la loro attività, tendono a difendere un po' il loro possesso. C'è, ma io lo sto notando progressivamente in riduzione questo pregiudizio, anche perché c'è un fatto che risolve tutto. Alternative, onestamente, non ci sono. Cioè, se vuoi competere col mercato, o ti managerializzi oltre ad avere soldi, o se no tu da solo non ce la farai mai. Ecco, per concludere, Carlo Bassi, un consiglio a chi ci sta ascoltando, che magari non ha adesso un problema immediato di, appunto, di collocazione di lavoro, però anche per costruirsi un futuro. Questa può essere una scelta anche alternativa a un lavoro che magari c'è, ma in qualche senso si affronta un po' con fatica. Noi abbiamo registrato un fenomeno negli ultimi 4-5 mesi di molti manager che hanno tuttora il posto di lavoro, ma pensano di intraprendere un'iniziativa imprenditoriale già adesso, anche pur non avendo il problema del posto di lavoro, per prepararsi a qualche cos'altro o costruirsi un'alternativa che li soddisfi di più. Quindi le possibilità ci sono. Dobbiamo guardare, come diceva Vasco Rossi, che il futuro è nelle nostre mani. Nelle nostre mani, assolutamente. È già qui. E ci siamo ancora. E sono ancora qua a operare. Grazie a Carlo Grazie Bassi. Grazie a voi, buona serata e buonanotte a tutti. Grazie a Carlo Bassi, amministratore delegato di Back to War. Grazie a quanti ci hanno ascoltato. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.